Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Al telefono con noi c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, parliamo di esami, tra l'altro un periodo questo dove i medici ne ordinano sempre meno, esami preventivi, perché siamo un po' all'osso, come si dice, con le spese della sanità, si sono ridotte di molto anche insomma, proprio gli esami che vengono ordinati dai dottori. E in questo caso però parliamo proprio di un esame che è stato ordinato, ma le cose non sono andate nel verso giusto. Ce lo racconti, Gianluca? Sì, Francesco, hai detto proprio giusto. Non è andata proprio come sicuramente si aspettava il paziente in questo caso. E la storia, diciamo subito, Francesco, è tragicomica, tra virgolette, chiaramente molto più tragica per la vittima, per il fatto che insomma il disservizio gli ha creato parecchi disagi. E chiaramente ne parliamo per raccontare di un mondo, quello della sanità, in cui insomma ci sono sicuramente gioie e dolori, nel senso sicuramente la nostra sanità veneta può essere considerata per certi aspetti una buona sanità, però dopo ci ritroviamo invece con situazioni come quella accaduta al nostro socio, che si è rivolto molto di recente da noi. Cosa è successo, Francesco? Lui praticamente ancora a fine settembre si è rivolto al CUP qua veneziano per prenotare un esame, una semplice tacca al colon, e l'operatrice era un sabato, ci racconta appunto il socio. L'operatrice gli fissa l'appuntamento per il 5 ottobre e assieme all'appuntamento stesso gli consegna anche la modulistica necessaria, soprattutto quella legata alla profilassi, cioè a cosa fare il giorno o i giorni prima dell'esame per essere pronti all'esame stesso. È fatto sta che la persona il 5 ottobre si presenta in un ospedale mestrino, appunto con la prenotazione in mano, e qua i medici gli chiedono, appunto, sapendo l'esame che doveva affrontare, se avesse fatto tutto ciò che bisognava fare, cioè se avesse preso per 3 giorni la purga, se avesse utilizzato il medicinale che gli era stato consegnato in ospedale e se avesse insomma provveduto alle altre cose indicate. E chiaramente il paziente è caduto dalle nuvole, perché in realtà nella modulistica che gli è stata consegnata al CUP aveva tutt'altre indicazioni, e cioè aveva delle indicazioni per un esame ai reni. Semplicemente, quindi, lui il giorno prima aveva bevuto molta acqua, esattamente 1,5 litri, e aveva proceduto anche a ingerire alcune bustine che era andato chiaramente ad acquistare in farmacia, e però sempre legate a una insufficienza, a un esame legato ai reni, quindi a tutt'altro organo. Succede allora che questa persona chiaramente è rimasta di stucco, è una persona relativamente anziana, ha avuto anche un malore, è andato a parlare subito alla direzione dell'ULS per cercare di capire cosa fosse successo. Insomma, per fortuna alla fine l'ULS ha ammesso l'errore, si è scusata e ha rinviato l'appuntamento all'esame esattamente all'11, quindi alla giornata di lunedì, per cui insomma diciamo l'esame è stato fatto. Resta però un problema. Noi abbiamo cercato di andare a fondo alla questione, chiaramente col paziente stiamo anche valutando la possibilità di un risarcimento, considerando che ha dovuto chiedere 5 giorni di ferie tra un esame e l'altro, e che ha anche speso dei soldi per dei medicinali che non gli servivano assolutamente. E noi stiamo cercando di capire cosa sia successo, e purtroppo anche dallo stesso racconto di questa persona pare proprio che questo disagio esista per tutte le persone che prenotano questa attacca al colon, nel senso che nel CUP in questione alle operatrici viene indicato che chi ordina quel tipo di esame, per avere la modulistica necessaria per capire cosa fare il giorno prima, deve rivolgersi a un altro ospedale, quindi deve andare a prenotare l'esame al CUP in un posto e poi andare a farsi dare la modulistica per capire cosa fare il giorno prima e andare in un altro ospedale. Francesco, capisci che ci troviamo di fronte a un meccanismo allucinante che probabilmente ha funzionato, almeno da come ci hanno riferito dalla stessa ASL, perché noi ci siamo anche premuniti di provare a sentire cosa diceva l'azienda a riguardo. L'azienda sostanzialmente dà la colpa all'operatrice, noi però diamo la colpa a un meccanismo che non ci pare che possa funzionare, perché pensare che una persona prenoti un esame in un posto ma debba andarsi a prendere la profilassi in un altro posto, insomma, ci pare un po' troppo mattinoso, ma assolutamente è un disagio per il paziente. Ma soprattutto in un'epoca dove le cose dovrebbero essere condivise in rete, cioè qua entriamo quasi nel ridicolo, è una cosa che poteva andare bene 15 anni fa, 20 anni fa. Infatti ti ho parlato di una situazione tragicomica, ovviamente, perché c'è una parte, quella parte tra virgolette comica, che è il pensare che un'azienda sanitaria, tra l'altro un paziente ci riferisce che da quello che ha capito questo disagio esiste da dicembre scorso, comunque questo insomma andremo a capirlo, però insomma anche dall'azienda stessa ci hanno detto che questa è la prassi, è sempre andata così, è sempre andata bene così, hanno 2000 persone, adesso non mi ricordo se al giorno, al mese, eccetera, e non è mai successo niente. Quindi il problema evidentemente è stato che quel giorno forse l'operatrice era un po' assonnata, perché teoricamente Francesco, quando viene fuori la modulistica per questo esame, perché andiamo proprio a complicarci ancora un po' la vita, quando viene fuori la modulistica l'operatrice vede una piccola nota in cui c'è scritto non consegnate la modulistica che segue al paziente, ma dite di andare a ritirare la modulistica giusta per la profilassi in un altro ospedale, indicando qual è l'ospedale specifico. Io mi chiedo, e l'ho chiesto anche al momento senza ottenere spiegazione, come mai non si possa dare direttamente la modulistica al centro unico di prenotazione? Resta ancora un mistero che cercheremo di svelare. E fatto sta che insomma ci troviamo di fronte anche a questo tipo di situazioni, e tra l'altro devo dire che il socio ci racconta che il giorno dopo questo disagio si è rivolto a una farmacia diversa da quella a cui si è rivolto inizialmente per chiedere i medicinali poi sbagliati, si è rivolto diciamo all'altra farmacia della zona, e in quella farmacia gli hanno confermato che altri pazienti stavano sbagliando la preparazione per presentarsi all'attack al colon. Come sappiamo ogni esame richiede una specifica preparazione. Diciamo che quindi noi abbiamo lanciato la notizia, adesso sarebbe interessante capire se qualcuno che all'ascolto, a cui è capitato la stessa cosa, magari vi telefona, perché così scopriamo quanti sono i casi accaduti di questo genere, perché poi normalmente magari uno non chiama l'associazione difesa consumatori, dice vabbè hanno sbagliato, amen, rifarò, ripeterò e via dicendo. Quindi è una cosa che diciamo, www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito con i numeri di telefono, chiamate l'Adico, informate anche su queste cose che vi sono accadute. Gianluca, io ti ringrazio, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.